Sofia, il primo sbaglio fu di arrivare a ora troppo tarda, Sofia. Al posto di frontiera avevamo dovuto aspettare per un tempo esasperante, perché dei 6 visti necessari ne avevo dimenticato uno, quello bulgaro. Quando finalmente la questione fu risolta, trovammo lavori sulla strada e fummo costretti a deviare su una sorta di pista lungo una piccola valle dove si viaggiava alle velocità delle lumache. Le grandi foglie delle piante di tabacco creavano macchie verdi sullo sfondo della terra rossa, facendo apparire ancora più austeri i grandi grembiuli neri delle contadine. Quando raggiungemmo la bella pianura intorno a Sofia, i campi di neve che ancora ricoprivano i fianchi del monte Vitosa erano già tinti di rosa dal tramonto del sole. Per tacito accordo proseguimmo. Non avevamo né tenda né cena da preparare, eravamo dirette a un albergo. Cristina era così spossata che appena arrivata si mise a letto. Io uscii alla ricerca di un garage, guidando per la prima volta attraverso il labirinto di una capitale dove la folla cammina tranquilla e incurante in mezzo alle viuzze. Ero talmente eccitata da dimenticare la stanchezza. Di ritorno in albergo trovai Cristina vestita. Aveva telefonato a Marjorie e un taxi ci aspettava per condurci in corso Osvoboditel. Accompagnate da Marjorie, cenammo e pranzammo in città. Incontrai l'elegante Silianov, il solo bulgaro che conosca. Con melanconia evocammo la Società delle Nazioni, dove ci eravamo visti per l'ultima volta. Ricordammo i nostri amici che erano scappati dal Gran Palazzo prima che facesse naufragio: il gaio St. George Saunders, il raffinato buongustaio, Clarence Strite, il fine utopista che aveva lasciato Ginevra portando con sé il suo manoscritto di Union Now, che avrebbe sollevato grande entusiasmo negli Stati Uniti. Mentre chiacchieravamo, osservavo in un giardino vicino un gruppo di scolari a cui si stava impartendo una lezione di patriottismo. Erano passati soltanto 70 anni da quando il paese era stato liberato dai turchi. Erano in piedi sotto la loro bandiera. Alla fine recitarono tutti insieme una preghiera. Poi li vidi fare strani gesti come per acchiappare una mosca, ma no, era un rapido segno della croce prima che la bandiera fosse ammainata. L'indomani Cristina si sentì poco bene, vomitò, poi dormì tutto il pomeriggio. Quando riaprì gli occhi, mi guardò dal fondo di un abisso di miseria, dicendomi di non sapere come continuare a vivere, e io fui incapace di capire che cosa le succedeva. Le sue parole suonavano così vere che avrei perso la testa se non mi fossi subito resa conto che erano dovute alla sua estrema stanchezza. Ma come in un lampo l'evidenza mi si impose. Sul pavimento del bagno vidi i frammenti della fragile fiala di vetro che conteneva la morfina. Ancora una volta, venendo meno al nostro patto, aveva ceduto. Era ricaduta preda di ciò che diceva di esecrare. La mia presenza, la fiducia riposta in lei, il timore di dispiacermi, erano stati vani. Quale significato attribuire a un simile insuccesso? Che cosa dovevamo fare? Chi era la vera Cristina? Il suo viso, dal grigio colore della cartapesta, mi era sembrato come morto. Le palpebre livide, le labbra violacee, il mento irrigidito da una contrazione interiore. Sembrava perduta in un mondo in cui non avevo accesso. Questa non poteva essere la vera Cristina, non poteva. Non parlai, temendo di ferirla o di esasperarla, e in realtà non avrei saputo che cosa dire. Il compito mi sembrava superiore alle mie forze. Lasciando Sofia dietro di noi, viaggiavamo in silenzio. Marjorie ci aveva indicato la strada da percorrere, augurandoci un buon viaggio con tutto lo slancio del suo gran cuore. La sera prima aveva cercato con infinita delicatezza di aiutare Cristina, raccontando un'esperienza che l'aveva profondamente colpita. Un giorno, in un momento di cupa disperazione, mentre si sentiva sprofondare nello sconforto, aveva avuto la rivelazione di quanto poco ella fosse importante. Da allora le era diventato impossibile drammatizzare le proprie difficoltà. Seguivamo la strada della Valle delle Rose senza parlare. L'essenza di rose che là si produce proviene dal taglio di tutti quei fiori. Nei villaggi si iniziavano a vedere uomini con il capo coperto di piccoli turbanti che bevevano caffè in tazze turche. Le donne erano avvolte in scialli neri. Le più anziane, sedute su uno sgabello, reggevano le loro canocchie come altrettante armi bizzarre. Sul ciglio di un immenso campo comprammo per pochi soldi un cestino di fragole. Ci dissero che alcuni studenti tedeschi si offrivano come volontari per la raccolta di questi frutti e si assicuravano ai contadini che, grazie a Hitler, intenzionato ad acquistare da loro 8.000 tonnellate di fragole e tutta la produzione di tabacco e di essenza di rose, non vi sarebbe stata carestia. Alcune contadine portavano gli ampi pantaloni islamici e ci parve interessante fotografarle. Ritornate alla macchina, ci sentimmo oppresse da un indefinibile senso di pesantezza. Cristina guidava con l'abituale disinvoltura. Il silenzio era tangibile, vischioso, ma non avevo mezzi per dissolverlo. Quando avrebbe alfine smesso di identificarsi con una sorta di cadavere vivente? Quando si sarebbe lasciata andare a parlare di ciò che realmente importava? Senza dubbio soffriva in modo atroce. Io decisi nondimeno di essere una volta per tutte irremovibile. Bisognava trattarla virilmente, non dimostrando né emozione né complice tenerezza, che potevano soltanto indurla a perdersi sempre di più. Io ero assolutamente convinta che quanti fra i suoi amici, uomini o donne, le erano venuti in aiuto fino ad allora, amandola troppo teneramente ed essendo troppo coinvolti nel suo male di vivere, le avevano tutti permesso di agire a modo suo. Nutrivo dentro di me l'orgogliosa speranza di riuscire laddove gli altri avevano fallito, sentendomi diversa da loro e non amando Cristina nel medesimo modo. Per questa ragione, forse, avevo su di lei una certa influenza. Nella nostra vita di tutti i giorni mi sentivo talvolta così distante dalla mia compagna da ignorare i suoi tentativi di darci del tu, e una simile riserva era per me del tutto insolita. Cristina, tuttavia, mi affascinava. Ne amavo il coraggio generoso contro l'ingiustizia, la correttezza e l'onestà di giudizio su se stessa, la dignità con cui sopportava la solitudine, la convinzione della necessità di penetrare il mistero dell'amore. Ma, come per una fatalità avversa, chiedendo troppo a questo sentimento, ella tendeva a distruggere tutto quanto contasse nella sua vita. Mi aveva commossa constatare che Cristina, nello sconforto in cui era caduta l'inverno passato, avesse pensato di scrivere da Neuchâtel proprio a me. In questa clinica divento pazza. Vorrei parlarvi in caso trovaste il tempo per venirmi a trovare. Andai, corroborata da un soggiorno in montagna dove allenavo la nostra squadra nazionale di sci. Cristina era venuta ad aspettarmi alla stazione con l'automobile. Era sfinita dalla sua lotta con medici incapaci di capire come per lei scrivere fosse vita e nutrimento e come la cura rigeneratrice di riposo forzato imposta ai dispettici o agli isterici non le si addicesse. Passeggiavamo in un mondo bianco, ammantato di neve fresca, vivificate dall'aria del lago, secca, pungente, splendente di purezza, mentre il mio cane eschimese, Palazzi, massa compatta di lunghi peli chiari, si divertiva a tirare la mia compagna lungo la strada deserta. Il vigoroso animale aveva attraversato la Groenlandia alla guida della muta di Robert. Mi era talvolta sufficiente posare lo sguardo su quello splendido e regale esemplare di cui ben conoscevo la fedeltà, per sentirmi confortata, per essere certa che quaggiù esistono nobiltà e bontà. Del pari, la compagnia di Cristina non suggeriva mai pensieri limitati o meschini. Volendo riassumere il nostro dialogo di quel giorno, potrei dire che convenni di soffrire della sua medesima follia, se follia era essere incapaci di lasciarsi soffocare da una vita di prudenza consigliata da tutti. Ero come lei, persuasa che anche se avessimo fallito, cercare il significato della vita era il nostro mestiere. Finalmente, la sera dopo la nostra partenza da Sofia, lungo la riva di un ruscello sotto un grande olmo, Cristina parlò con voce sorda. Nel caso decidiate di tenermi con voi, suppongo che dovrei sottopormi a un controllo costante. Mi darete ancora la vostra fiducia? Lo farò se lo vorrete. Non ho mai smesso di sperare. So che quando vi conoscerete meglio, questa miseria che costruite con le vostre stesse mani si dissolverà come nebbia leggera. Avrei voluto parlare ancora, ma sentivo che non era disposta ad ascoltare oltre. L'indomani, Cristina aveva l'aria di una qualsiasi altra convalescente. A sud di Plovdiv, il paese appariva miserabile con le sue catapecchie sparse qua e là. Senza quasi badarci, accendemmo la radio e una languida ciarda ci avvolse con le sue note di passione. E piano entrai nel mio paesaggio interiore. Era questa la quinta volta che partivo per l'Asia. La consuetudine al percorso fino a Herat in Afghanistan non mi permetteva di lasciarmi prendere dal fascino eccitante della scoperta. D'altro canto, sentivo come obiettivo principale di questo viaggio l'impegno di sottrarre Cristina a un ambiente negativo, creando al contempo le condizioni che avrebbero potuto indurla a vivere una vita normale e a gustarne i piaceri. Ero certa che saremmo riusciti a raggiungere i nostri amici Hacking seguendo la via che conoscevo, a condizione però di non concederci nessuna deviazione, di non cedere alla passione dell'imprevisto. D'altronde, il mio scopo era di ottenere la padronanza su di me e di salvare al contempo la mia compagna da se stessa. Il secondo obiettivo dipendeva dal primo. Soltanto una chiara conoscenza del mio animo mi avrebbe permesso di aiutare Cristina a risolvere il suo problema fondamentale. Una simile padronanza di me stessa mi costringeva ad aderire maggiormente alla realtà e, dopo i miei primi vagabondaggi tra marinai e nomadi, ero alla ricerca di una vita reale. Per il momento, il solo vago mezzo per concretizzare il mio progetto consisteva in una camera imbiancata a calci in un villaggio del Pamir, dove contavo di imparare a pensare. Tale allenamento doveva aver luogo al mattino, prima di partire alla ricerca di crani per il mio compasso. Lucien Fabre riteneva che un paese islamico non avrebbe favorito in nulla tale conoscenza di sé, ma io non volevo aiuto. Lontana dall'Europa, dal suo clima di paura e di attesa febbrile, desideravo semplicemente volgere lo sguardo su di me. La ricerca di un'edenica tribù montana era il pretesto per sfuggire alla confusione della mia terra. Senza dubbio la conoscenza di sé può essere acquisita ovunque. Tuttavia mi sentivo troppo debole o troppo sprovveduta per non lasciarmi contagiare da quella smania che infervorava l'Europa. Rivolte, terrori, militarismi, ideazioni di piani. Mi sembrava che in Occidente tutti fossero sbandati quanto lo ero io, e allora perché non andare verso Oriente? Per quanto riguardava l'altro mio scopo, il primo slancio di altruismo verso Cristina era già contaminato da un sospetto di vanità. Come potevo io, Chini, considerare la possibilità di una sconfitta? Sarei riuscita ad aiutarla a qualsiasi prezzo. I primi dubbi però già si facevano strada, dubbi sinceri al pari di quella fiducia dichiarata a Londra quando avevo accettato la sfida lanciata da Irene. Riferì a Cristina le cupe previsioni di quel giorno, ma per controbilanciarle aggiunsi che Blaise Sandra, a cui l'avevo presentata, intuendo tutto il suo valore, era impaziente di rivederla. Da parte sua, anche la mia amica aveva ricevuto il consiglio di non mettersi in viaggio con una persona come me, ritenuta cinica e immorale. Non avevo forse scritto in un mio libro che partivo per l'Asia con del Salvarsan in borsa? Prova questa delle mie intenzioni di vivere in modo licenzioso. Cristina aveva ribattuto che la mia era stata una misura precauzionale, volendo vivere fra i nomadi di cui si conosceva l'alta percentuale di malattie venere. Un tale rimedio mi sarebbe stato utile in caso fossi stata contagiata bevendo in qualche loro recipiente sporco. Ma un acre odore di fumo ci allarmò improvvisamente. Ci fermammo per individuarne la provenienza e, chinandomi verso Cristina, scoprì che si trattava molto semplicemente della sua prima sigaretta bulgara accesa in quel momento. Attraversammo la pianura della Marica, immensa, senza alberi, punteggiata di pazienti cicogne immobili nell'erba alta. I bufali, dal cranio appiattito, dalle corna schiacciate, dagli occhi prominenti e stanchi, dalla pelle umida e inzaccherata, alla ricerca di un qualche sollievo dal caldo torrido nel fango dei canali, sembravano il simbolo di quei paesi infestati dagli insetti. L'auto era davanti alla sbarra della frontiera turca. Malgrado le mie spiegazioni, il doganiere si confuse. Aveva appena scritto che la signora Silva Plana, nata a Francis, era segretaria d'ambasciata, quando si accorse che quella era la professione del marito. Allora che cosa devo mettere? Insegnante? Ma rendendosi in quel momento conto di avere fra le mani un passaporto diplomatico, divenne nervoso. Appose infine i sospirati timbri sui passaporti, ma senza dubbio a causa della sua agitazione si dimenticò di informarci che entravamo in una zona militare. La carta stradale indicava che stavamo avvicinandoci a Edirne, l'antica Adrianopoli, e ben presto raggiungemmo i suoi giardini. Non eravamo preparate allo spettacolo che si offrì ai nostri occhi dopo aver aggirato una collina. Illuminata dai raggi orizzontali del sole morente, una visione da mille e una notte fluttuava al di sopra delle nebbie color lilla. Slanciati e preziosi si innalzavano numerosi minareti avvolti dallo scintillio di una luce d'oro. Incredibilmente alti, accanto a immense cupole ombreggiate di polvere cremisi, apparivano come alberi di una nave di marmo ancorata in cieli iridati. Ma la splendida apparizione presto si dissolse, lasciando soltanto lividi profili dopo quella gloria di luce. Desiderose di vedere quali portenti avrebbe compiuto il sole dell'alba su uno scenario simile, montammo la tenda in quel luogo stesso, ma fummo costrette a rifare velocemente i bagagli per salvarci da una frotta di bambini che ci avevano circondate e ci assillavano di domande. A nulla valeva dire continuamente che non eravamo tedesche, alemani, Jock, no, no. Frase che a partire da quel momento avremmo dovuto ripetere ogni giorno. Attraversata la città, ci dirigemmo verso est per una strada secondaria alla ricerca di un luogo dove trascorrere la notte. Da questo lato, però, Edirne era un deserto. Steli funerarie in rovina indicavano un'immensa necropoli, certo segno che la città fu un tempo una capitale islamica. Rinunciammo a trovare di meglio e ci accampammo su un terreno ondulato. Quella notte il suolo di creta secca, dura come roccia, indusse Cristina a comprarsi un cuscino a ciambella per la sua anca. Il chiarore del mattino ci svelò la città lontana dietro di noi. Avremmo voluto rivederla, ma essendo sabato dovevamo arrivare a Istanbul in giornata, prima della chiusura degli uffici. Rivolgemmo dunque un ultimo sguardo ai monumenti di Edirne prima di rimetterci in cammino. Uno di questi, costruito nel XVI secolo, era il capolavoro del famoso Sinan, la moschea del sultano Selim II, alta quanto quella di Santa Sofia a Costantinopoli. Partire presto era stata un'ottima intuizione. Stavano infatti preparando il fondo della nuova strada internazionale e procedere in quelle condizioni era quanto mai disagevole. In tre faticosissime ore coprimmo un percorso di 25 chilometri. La Ford rimaneva spesso incastrata nei solchi profondi lasciati dai camion, oppure strisciava con il fondo o il tubo di scappamento sulle pietre. A Corlu, felici di essere nuovamente su una strada normale, filmai il nostro primo nido di cicogne, quasi un'acconciatura sulla cima di un minareto. È abbastanza pericoloso usare macchine fotografiche in Turchia e più si procede verso est, in Iran, in Russia e in Giappone, più il rischio aumenta. Lo sapevo, ma non avevo previsto che potessimo essere arrestate così presto. Un posto di gendarmeria si trovava malauguratamente a 20 metri da quelle cicogne, con la conseguenza che ci trovammo da lì a poco chiuse in un ufficio. Ah! Si trattava proprio di una di quelle vecchie case di legno che ero tanto curiosa di visitare. Cercavo di rabbonire il commissario, seduto dietro i nostri cinque apparecchi, un numero spropositato. Non erano sigillati e per di più li avevamo usati in territorio militare. Inutile fingere di ignorare il fatto. Potevamo dare un resoconto preciso di ogni ora trascorsa in Turchia? Dove avevamo dormito la notte passata? Perché i nostri passaporti non recavano il timbro, peraltro obbligatorio, dell'albergatore che ci aveva ospitate? Avete dormito lungo la strada nei pressi di Edirne? E dovrei credervi? Sarete rilasciate soltanto quando le vostre pellicole saranno sviluppate. Occorse un tempo infinito per capire quanto ci diceva. Il commissario non parlava che turco e di questa lingua noi non conoscevamo che Aleman Yok. E per nostra sventura il paese pullulava di tedeschi che dichiaravano la stessa cosa. Fu chiamato il fotografo del villaggio e la maestra che sapeva il francese. In presenza delle autorità, ambedue tremavamo di paura. In quanto a Cristina, la sua pazienza era al limite. Sentivo che stava pensando a come intimorire il commissario e tremai a mia volta. Usai tutto il mio potere di persuasione per convincerla che in un paese di recente trasformazione occorre innanzitutto apparire molto deferenti verso gli ufficiali. Con le dita annerite dall'acido, il fotografo cercava di aprire la mia Leica, ma invano. Alla fine dichiarò onestamente di non essere in grado di estrarre e neppure di sviluppare le pellicole. Poco dopo, con nostra grande sorpresa, ci lasciarono libere. Forse il commissario aveva fame, eravamo nel suo ufficio ormai da 4 ore. Ci dileguammo a gran velocità. I campi di grano ondeggiavano chiari mentre il Mar di Marmara segnava il sud con un'immobile linea di blu intenso. Al momento, al tramonto, ancora una volta, ci avvicinavamo a una capitale. Un fitto e cupo fogliame copriva strisce di terreno accidentato e al di sopra, inabissandosi ed elevandosi in sagome stilizzate, simili a una muraglia cinese sperduta fra gli alberi, le grandi mura di Istanbul dominavano il paesaggio. Là morì nel 1453 l'ultimo imperatore di Bisanzio vinto in battaglia da Maometto II, quel terribile turco, tanto forte da abbattere un mondo. Il mondo imperiale romano, la cui magnificenza era durata 1000 anni. Aveva soltanto 21 anni quando guidò in battaglia i suoi 160.000 uomini. Prima dell'ultimo attacco disse loro: in guerra tre sono le condizioni per trionfare: volere la vittoria, vergognarsi della sconfitta, saper obbedire al proprio capo. Quando arrivammo quel sabato sera davanti alla porta di Edirne, non vi erano che pochi uomini che con la testa protetta dal berretto militare prendevano il fresco con aria annoiata. Da qualche parte, nella grande città distesa ai nostri piedi, tra me e Cristina, ci sarebbe stata senza dubbio una spiegazione. Istanbul. Non avevamo interesse a visitare la città poiché la conoscevamo bene. Mi limitai a ritornare nella grande moschea del sultano Ahmed, moschea dal pavimento levigato e da cui si gode la più bella vista sul Bosforo, o almeno quella che preferisco. Mentre lungo le navate delle nostre cattedrali si ha l'impressione di essere come sospinte verso l'altare, entrando all'interno di certe cupole si sperimenta la strana sensazione di essere aspirate verso l'alto. A nord di Istanbul vi è il borgo di Terapia, dove le famiglie agiate hanno la loro villa. Là esisteva ancora quello che era stato il Sumer Palace Hotel. L'architetto Holzmeister, che costruì Ankara per Kemal Atatürk, vi viveva molto semplicemente con il suo personale, composto da rifugiati austriaci e cechi. L'atmosfera era gradevole, grazie a un'attenta cura dei dettagli e delle proporzioni, alla pulizia dell'immobile, che comprendeva una bella successione di 8 o 10 camere. Per noi si trattava dell'ultima casa europea in cui saremmo entrate. Holzmeister ci condusse al porticciolo dove alcune contadine vendevano lamponi. Chiatte e barche di lusso dondolavano dolcemente legate ai loro ormeggi. Alcuni bambini si tuffavano, schiamazzando. Mossa dalla brezza e tesia, l'acqua lasciava intravedere profondità verdi e turchine e lambiva la banchina di marmo. Alcuni pescatori remavano, lenti, sui loro caicchi dalla prua splendidamente arcuata. Le rive che via via si imporporavano sotto la luce del tramonto mi riportarono all'allegria del Mediterraneo, alle sue lusinghe, al richiamo degli alberi reclinati sulle spiagge, a quel mare di mezzo la cui atmosfera e cultura sono a misura d'uomo. Quale smarrimento mi aveva condotta a voltare le spalle al mondo a cui appartenevo? Su una terrazza, al cospetto dell'immenso cielo, ci furono servite per cena minestra, carni fredde, insalata, formaggio e frutta. Il vicino di Cristina era un medico che in passato l'aveva curata mentre si trovava ad Ankara. Il nostro ospite, di cui vedevo rilucere nella notte la bianca capigliatura, era un capo rispettato. La sua straordinaria vitalità impediva l'insinuarsi di certe malinconie quando parlava dei familiari rimasti in Austria. Uno splendido uomo dal fisico atletico, seduto accanto a me, prese la chitarra e intonò in nostro onore alcune melodie in patois svizzero. Altre voci si unirono e i canti evocarono le Alpi lontane, l'ultimo e il più bello, così diceva: O terra di Tirolo, mio solo bene, sia rivolto a te il mio ultimo sguardo. Sei dir geweiht, mein letzter Blick, o Land Tirol, mein einzig Glück. Quelle parole, così pacate, così sicure, diventavano strazianti cantate dagli esiliati. Costoro non avevano nulla in comune con altri emigrati di mia conoscenza, certi russi in perpetua attesa della miracolosa ricomparsa di uno zar. Poco dopo rientrammo nel nostro London Hotel. Cristina rimaneva silenziosa, senza dubbio era commossa, e ci addormentammo rapidamente. Cristina giaceva per terra, raggomitolata su se stessa, esangue, più simile a un cane morente che a una creatura umana. In piedi, accanto a lei, la coprivo di calci, gridando furiosamente: Ora, direte qualcosa, perché non mi rispondete? Sentivo che se fossi riuscita a farle abbastanza male, avrebbe finalmente parlato e tutto sarebbe andato a posto. Cercando di causarle più dolore possibile, mi accanivo sulla sua testa senza vita. Doveva parlare. Furibonda, infersi un tale colpo dentro la massa tenera del ventre da torcermi la caviglia e mi risvegliai. Tremavo ancora di quella passione che aveva posseduto in sogno il mio corpo. Luce del giorno. Il letto di Cristina è vuoto. Dove è andata? Che cosa è successo? Oh, devo agire, ma come? Apro la porta, avanzo esitante nel corridoio e l'albergo è costruito intorno a un cortile chiuso, quadrato, che dà luce alle stanze prospicienti la galleria. Cammino come un automa. Sento la sua voce, monosillabi, poi la vedo al fondo del ballatoio, in piedi, intenta a telefonare. Ha l'espressione smorta dei giorni peggiori, mi vede. Il mio viso è forse ancora sconvolto dall'incubo di poco prima, sembra abbreviare la conversazione. Se poco prima mi vergognavo dei miei istinti da carnefice, ora ho la sensazione di spiarla e mi detesto. Torniamo in camera e Cristina dice: Era il dottore, il mio vicino di ieri sera. Mi informava che aveva delle leucodali in caso ne avessi avuto bisogno. È stato lui a chiamarvi? Non ha importanza, gli ho detto che ne potevo fare a meno. Sapete, Cristina, perché mi sono svegliata? Non è stato per i passi dei vostri piedi nudi sul pavimento. E le racconto il mio sogno senza omettere nessun dettaglio, neanche i più crudi. Siamo turbate. Quell'incubo sembra indicare l'esistenza fra noi di corrispondenze più profonde di quanto potevamo supporre. Sono sconcertata di scoprire in me una tale potenzialità di crudeltà. Ci troviamo non lontane dal famoso Pera Palace, dove, ben prima di conoscerla, avevo immaginato Cristina sentendo parlare di lei per la prima volta dal marito della mia migliore amica. Miet, il quale era andato a trovarla per discutere di archeologia. Mi aveva detto di essere stato ricevuto, il loro incontro risaliva 3 anni prima, con estrema gentilezza e con quella liberalità che la ricchezza permette. Questa volta sono io a trovarmi a Istanbul con Cristina, ma che contrasto di situazioni! In una camera tristemente modesta avevo appena preso a calci quella stessa raffinata signora. Credo che preferirei uccidervi piuttosto che vedervi diventare il relitto umano del mio sogno. Kini, da molto tempo ormai vorrei chiedervi le ragioni per cui vi preoccupate tanto per me e sapere per quale motivo mi avete condotta con voi. Perché mi preoccupo per voi? Ah, non lo so. Quando vedo sciupare in tal modo doni pari ai vostri, mi è impossibile capire se la mia ansia è dovuta all'affetto o alla repulsione. Parlo di doni. Vi sono arrivati, non li avete conquistati, e si testimoniano un'intelligenza superiore alla vostra attuale follia. Come non intuire che li avete ricevuti al solo scopo di farli fruttificare? Per quanto riguarda la seconda domanda, potrei in tutta sincerità rispondervi che viaggio con voi perché viaggio con voi? Solamente a cose fatte sarà possibile trovare delle spiegazioni. Dopo una pausa di silenzio soggiunsi: Dire che sapete di riuscire a vivere senza quel veleno. A più riprese e per molti mesi avete potuto farne a meno. Non posso aiutarvi, vostro malgrado. Dovrei chiudervi a chiave di notte, rovistare nelle vostre valigie, stare sempre di guardia. Mio Dio, in nome di che cosa potrei limitare a tal punto la vostra libertà? Vi lascio ogni potere su di me, giorno e notte. Non lasciatemi sola. Se mi dovesse succedere ancora, tornerò indietro e terrete la Ford. Partiamo il più presto possibile. Devo stare lontana dalle città. Se so che non posso procurarmi nulla, mi è più facile vivere. In città, per contro, non riesco a impedirmi di pensare che cederei se da un momento all'altro mi assalisse la tentazione. Sono ossessionata da quei pochi istanti di oblio che ne trago, istanti pagati poi con ore di cupo o scoraggiamento. Non ne provo neppure più piacere. È come se cercassi una pausa nel vuoto, un momento di riposo. Il solo che conosca. Il resto del tempo, anche in queste notti senza fine, vivo temendo che la paura abbia il sopravvento e che il tormento della tentazione faccia crollare il muro della mia decisione. Vivo come se fossi in parte paralizzata nel terrore di ciò che potrebbe accadere. Voi farneticate, siete vittima della vostra immaginazione. Pur di vivere intensamente, portate tutto all'eccesso. Sentimenti, lavoro, alcol, rivolta sociale. È forse questo il mezzo da voi scelto per annientarvi il più in fretta possibile? Dovete costringervi a vivere una vita pacata, con ritmi uguali, monotoni, i soli che vi diano una possibilità di ricostruirvi. In seguito imparerete quanta ricchezza, quanta intensità possa contenere un solo minuto normale. Ma vedete anche voi come la sorte mi si avversa. Ogni volta che sento di essermi liberata, ritrovo i miei veleni a portata di mano per qualche strana circostanza e sostengono che sia impossibile procurarsene. Questo succede perché una parte di voi li desidera ancora, ma cercate a ogni costo di illudervi che non sia così. Siete come le nazioni che proclamano di volere la pace e preparano conferenze sul disarmo, sapendo benissimo di non essere pronti a impedire la guerra. Se non li desidererete più, vi sarà indifferente che siano o no accessibili. Ma siamo franche, quando scrivete un libro, che cosa vi accomuna a quest'essere timoroso di tutto che avete appena descritto? Scrivere ha talmente importanza per me. Sapere chi siamo, quella pietosa creatura che eravate, scompariva quando vi occupavate dell'inchiesta sul lavoro negli Stati Uniti, quando radunavate i documenti necessari per la vostra ultima biografia. Il primo passo è scoprire ciò che vi assorbirà in modo sufficiente. Allora sarete salva. Più approfondisco questioni diverse, più dispero che vi sia giustizia sulla terra. Ma prima di tutto, chi può sapere che cosa è giusto? Dissi, interrompendola. Avevamo deciso di non lamentarci di questo mondo prima di saperne di più. Ci siamo convinte che se esiste un regno dei cieli in noi, non vi è ragione di non ottenerne la certezza. Eravamo d'accordo che la speranza di vivere pienamente avrebbe reso più appassionante tutto quanto avremmo intrapreso. Guardiamo avanti e vi supplico, siate paziente, Cristina.